Il posto di lutto industriale, posto capitale, antinoxic, posto di ogni posto che verrà, passerà, si disperà. Mia città! Mia contristata! Mia assediata, ripudiata, esacerbata città! Il progresso partorito aveva nell'ingresso. Nella vecchia scurta, manca se. Manca cosa? Partorito diceva sia che in orbita elevanti sia ai cieli, al cielo, sottisti di slaser, disaccendische schimiche, post-schimiche, scatologie. Ma lei parla e scrive troppo alto, troppo difficile parla e scrive, signore. Siringa, ben oltre la cerchia di loro i navigli con l'infangato labbro, lui è il melam, per tutta l'abbraccio che va dentro, la snig. Perché tornerò, sì, tornerò, allora voi, sì, voi. Ed è... Il seme pane al pane, la spora, la semente, eccolo là, pallido ebro, mancano pochi passi, l'ombre lo guardano, che impietose indifferenti incontra nelle antistanti aiuole. Ancora esiste giù qualcuno, esiste giù qualcuno che si incontri, oggi di chiedersi, oggi. Di far cosa? L'autosalente, il levante si giù tutto, anche manca di slip, di far la troia, ecco da quel troio, lui rivuole di Gino. Gino, l'urlo della madre, vomito di sangue, voragine di partorienti, da sopra i gironi trapassati lei dal gongo, tra la croce, l'occhio atterrito sui giurati fuori, perché pesti, perché mangi, nel gongo della il povero Gino, lui aveva fatto vedere e lei aveva vista vera, qualunque avrebbe fatto cosa qualunque per poterlo ascoltare, l'urlo, Dio degli assediati, Dio dei procreati in vitro, Dio dei pederasti, Dio degli assassinati a proprio che potevano sognare. Grazie. Mangia, Sì, io ho perduto i sensi e anche i sentimenti. Thank you. Mi viene da lui. Ci disserei anche, se avessi timore, no, che poi uno arriva e la dimmi mano seconda. Non abbi paura, Rosino, conciato che sei adesso la mano non te la sono per nessuno, neanche se ti tiri fuori luce. Facci una croce sopra, che a furia di muovere, o per dentro o per fuori, o per muovere. È venuta anche la cosa, la cisti. La dolorosità del dolore, il soffrire del non soffribile, Gesù, Adamo. Credomi, eccoli, capami, eccoli, la cellula, la macchina negra, la porta, che già tante volte, tante, il mio dietro che me. figlio, tutto quanto vuole lei di tenerezza. Lei se l'è domandato mai? Cercatelo! Chi? Cercatelo! E non capisco se mi parli da lì. Allora il campese è staccato dall'edicola di Giornà, è venuto in coda, ma portato nel bar, ma le tusciate di qui. Prendi qualcosa. E mentre che si aspettava il cameriere, ma mi messo la mano sua sulla di me. Mi ha detto. Metti che sia come padre tuo, mio papà, tuo papà, un silenzio non troppo anche più dell'eternità, ma il mio papà è un santo, la mia mamma. Liquida, come fosse. aiutarmi. con Roberto Latini di Forte Braccio Teatro per parlare di diversi appuntamenti della compagnia a Roma, al Palladium dall'11 al 13 ottobre con In Exitu e al Teatro Vascello con tre spettacoli da lunedì 14 ottobre fino al 20 con La delicatezza del poco e del niente, Il cantico dei cantici e Sei e dunque perché si fa meraviglia di noi. Roberto, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi, piacere sempre. Ci racconti un po' di questa maratona? Sì, ecco, l'idea di arrivare a Roma, tornare a Roma, vuol dire in qualche modo sollecitarci al repertorio tutto, insomma, al campionario intero. Quindi nell'occasione di Teatro Palladium, Teatro Vascello, che ci danno ospitalità, presentiamo l'ultima produzione, In Exitu, da un romanzo di Giovanni Testori, un romanzo di fine anni Ottanta, quindi non un testo teatrale, ma riadattato, insomma, per l'occasione da me su invito di Federico Chieci e Sandro Bombardi, quindi da parte di qualcuno che frequenta Testori e l'ha frequentato, diciamo, in spettacoli mirabili. Poi ci spostiamo a Teatro Vascello lunedì sera, una serata unica, tra le parole di Mariangela Gualtieri, la poetessa Cesenate, di cui siamo tutti innamorati, nella sua capacità di stare alle parole come, insomma, come la poesia in qualche modo, qualche volta, si permette così accanto alla sensibilità, alle sensazioni di ognuno. Martedì riposo, mercoledì e giovedì presentiamo di nuovo a Roma Cantico dei Cantici, che è una produzione che ha avuto un debutto lo scorso anno, 2 anni fa ormai, che era stata a Roma l'anno scorso, però insomma, per soli 3 giorni, quindi abbiamo deciso di aggiungerne altri due, insomma, visto il numeroso pubblico che aveva partecipato e perché ci fa piacere anche tornare dove è successo, insomma, il Teatro Vascello, da un'affezione antica, è uno degli spazi, forse lo spazio più bello di Roma, insieme al Teatro Valle. E lì presentiamo in ultimo Sei e dunque perché si fa meraviglia di noi, la nostra produzione dell'anno scorso, ancora non passata a Roma, se non in una serata l'anno scorso a settembre, ma in una specie di pomeridiana festivaliera e quindi effettivamente per la prima volta a Roma un lavoro tratto da 6 personaggi di Pirandello destinato ad altro con Pier Giuseppe Di Tanno, unico interprete, mia regia, tutti gli spettacoli, musiche e suono di Gianluca Mizzichi, luci e direzione tecnica Max Pugnai e ho detto quasi tutto. Ecco, a proposito delle varie scritture, ripercorriamo tutte le tappe specificando un po' quali sono i vostri elementi di interesse rispetto proprio alla scrittura che avete affrontato. Particolarmente sono alcuni anni che nel vizio, nell'occasione, nel privilegio, voglio dire, della parola, suono, e forse questo può essere il filo conduttore che lega tutte queste proposte, ecco, dall'estremo di versi, di poesie, come nel caso di lunedì al Teatro Vascello con La delicatezza del poco e del niente, che intitola la serata a Mariangela Gualtieri, anche passando per Cantico dei Cantici, ovviamente, quindi per la capacità che hanno quelle parole così antiche di darci ancora del tu, come anche Pirandello tutto, testo e didascalie, tutto quello che c'è dai 6 personaggi da un certo punto in poi, fino a In Exitu, che è appunto forse il manifesto a tutto questo, perché Testori è un autore che ci dà appuntamento di continuo. Ho scritto nell'imbarazzo tra suono e senso, riesce a sollecitare la grammatica a dei livelli unici, i suoi testi, le sue parole, al di là della trama, che in questa occasione è quella di un tossicodipendente marchettaro nella Milano anni Ottanta, sposato cosa perfettamente, invece la sensazione che sia lui il pusher di questa lingua, che sia lui quello che manda in overdose il testo e le parole. Il drogato, ecco, non c'è il personaggio soltanto la mente, ma è anche la grammatica, la sintassi, per come testo riesce a sollecitarla. Ripercorriamo anche un po' la parabola della compagnia Forte Braccio Teatro e anche rispetto alla fase che state attraversando. Sì, Forte Braccio Teatro nasce nella seconda metà degli anni 90 a Roma, poi si sposta a Bologna per una decina d'anni e lì rimane fino a quest'anno, dove siamo dopo 20 anni di finanziamenti da parte del Ministero dei Beni Culturali, poi in realtà non è mai un finanziamento, ma è un contributo. Abbiamo deciso di rinunciare al contributo del Ministero a favore, insomma, di un'indipendenza intellettuale, quantomeno artistica, fuori dai parametri e dalle griglie, dagli algoritmi che vengono richiesti alle compagnie. Abbiamo trovato una sponda nella compagnia Lombardi Chiezzi che ci accompagna e ci struttura, ma insomma, ecco, abbiamo rinunciato a un finanziamento a favore di un'indipendenza che trovo invece fondamentale e senza prezzo. Roberto, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per seguirvi? Sì, in realtà Teatro Palladium e Teatro Vascello, prima ancora di quello di Forte Braccio Teatro, gli spettacoli sono, questo va segnalato, al Palladium alle 20:30, non alle 21, questo lo dico ai romani, perché da romano so perfettamente quanto mezz'ora sia oro in questa città. Non ricordo l'orario della pomeridiana, ma ecco, diciamo così, la impariamo insieme andando sul sito del Teatro Palladium e poi al Vascello anche vari orari, insomma lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, tutta la settimana eccetto martedì, con tre proposte diverse, anche lì sul sito del Teatro Vascello, insomma, oppure sulla pagina Facebook di Forte Braccio Teatro. Allora, riepilogando, in exitu al Teatro Palladium dall'11 al 13 ottobre, al Teatro Vascello La delicatezza del poco e del niente lunedì 14 ottobre, Il cantico dei cantici 16 e 17 ottobre e poi 6 e dunque Perché si fa meraviglia di noi dal 18 al 20 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Latini di Forte Braccio Teatro. Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, ci si vede a teatro. Grazie, credi, a presto. L'attore Elino Guanciale sullo spettacolo Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini a Roma, Teatro Argentina, dal 15 al 27 ottobre 2019. Ciao Federico. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene. Senti, intanto ti chiederei della scorsa stagione, sempre Ragazzi di vita. Ragazzi di vita, la scorsa stagione è stato... Beh sì, ormai si può dire, insomma, uno dei successi teatrali più importanti, non soltanto romani, perché pur essendo andato in replica soltanto qui a Roma al Teatro Argentina, ha raccolto qualcosa come 15.000 spettatori, è stato poi molto premiato, insomma, alle Maschere d'Oro, insomma, ha preso il premio come spettacolo dell'anno, la regia di Massimo è stata premiata sia alle Maschere che dall'Azione della Critica che da Giubu. Quindi è uno spettacolo che la scorsa stagione ha raccolto un consenso, una risposta che è andata anche al di là delle aspettative di chi ci lavorava, delle più rose speranze, diciamo, perché si trattava in qualche modo di una scommessa, tra i tanti motivi, perché è uno spettacolo che è tenuto su da un cast tendenzialmente molto giovane, sì, su cui Massimo ha fatto un fortissimo lavoro, creando di fatto un gruppo estremamente efficace. Ecco, la cosa che che conquista in genere chi viene a vedere lo spettacolo è l'onda d'urto energetica, molto yang, diciamo, tutti presenti. Sì. Riallestendo lo spettacolo, quello che abbiamo notato tutti è che secondo noi lo spettacolo è ulteriormente cresciuto, un po' perché c'è la memoria della grande e bella risposta di pubblico che raccoglie, quindi parte in qualche modo in vantaggio, no? Rendendo lo spettacolo a queste condizioni. E un po' perché partire da questo risultato acquisito dà la tranquillità, se ovviamente questa non si trasforma un po' in autocompiacimento, ecco, ma su questo Massimo ci ha messi bene in guardia tutti, ed eravamo in fondo tutti quanti pronti ad affrontare questo rischio, perché sì, Veramente questo è un progetto che è molto amato da chi sì, lo porta avanti, da tutti noi. Abbiamo potuto approfondire, ognuno di noi, e poi anche in gruppo, diversi aspetti sui quali la tensione della vera prima dell'anno scorso ci aveva evidentemente inibito. Insomma, non stiamo più a farci tante domande, funzionerà o non funzionerà. Adesso è ancora più a fuoco quell'immagine di Roma pre-pasoliniana in realtà, secondo me, che Massimo ha voluto cercare di restituire, cioè quella vitalità belliana della Roma di cui Pasolini si innamora. Ecco, a proposito di questa tua considerazione sulla Roma pre-pasoliniana, cosa ti ha convinto del testo? Cosa ti piace di questo lavoro di Pasolini? Ma a me del lavoro di Pasolini ricordo quando già lo lessi e avevo 16-17 anni, quello che incuriosita subito fu questa volontà di documentare una realtà difficile, enormemente pesante, scomoda, come quella della gioventù figlia della guerra e soprattutto poi dei prodromi, no, del consumismo che stava cominciando ad arrembare sulla nostra cultura, generando dei cambiamenti antropologici irreversibili, portato avanti però questo discorso da Pasolini con grandissima umanità. A me di Ragazzi di vita piace soprattutto questo, cioè il fatto che sia un libro scritto da un ragazzo in qualche modo, sì, da un intellettuale molto giovane, tutto sommato ancora nuovo della capitale, anche se estremamente strutturato, già raffinato, come tutti quanti sappiamo, e che questo sguardo dato da un giovane uomo sulla gioventù di quegli anni sia quindi forte di, al netto anche di certe ingenuità, della potenza verginità in qualche modo con cui si guardano le cose quando le si scopre. Quindi questo entusiasmo che Pasolini mette anche lì dove va a toccare realtà estremamente dolorose e problematiche è anche superiore, diciamo così, al valore del messaggio culturale che manda, perché nel testo si racconta una cosa molto chiara in fondo, che è tanto parente anche delle poesie delle ceneri di Gramsci, del Pasolini di quegli anni e anche del Pasolini successivo, cioè l'idea che nel passaggio alla nuova Italia si perdano irreversibilmente determinati valori, in qualche modo figli della arcaica. E la vicenda del Riccetto in questa paradigmatica, cioè questo bambino che all'inizio salva una rondine, poi alla fine invece la vita non la rischia per salvare un quasi coetaneo, e sono passati pochi anni tra il capitolo. Ecco, sul moralismo, tra virgolette, pasoliniano si può o meno essere d'accordo, può o meno piacere. La cosa che innegabilmente è potentissima, secondo me, del testo è questa carica di entusiasmo travolgente che lo spettacolo restituisce. Ecco, a questo proposito, Lino, il tuo incontro con questo spettacolo come è venuto fuori? Beh, io sono amico di Massimo Popolizio da tanti anni. Quando ho cominciato a lavorare a teatro ho avuto la fortuna di incrociarlo. Appena ho cominciato a fare dei ruoli da protagonista giovane, insomma, ne avevo 23 o 24 di anni, mi sono trovato sulla strada questo che allo stesso tempo era un modello e anche un enorme ostacolo da superare con il quale lavorare, perché Massimo è un attore, un compagno di lavoro esigente e estremamente stimolante. E ne è nata da subito una grandissima stima, per cui in questi 15 anni alla fine in cui ci si conosce abbiamo collaborato diverse volte in piccole e grandi cose. Mi aveva già chiamato e coinvolto nella prima sua regia, il Plutos, quando ha voluto portare in scena Ragazzi di vita per il Teatro di Roma, mi ha chiamato praticamente subito. Sì, sì. E io ho accettato il slancio, un po' per sì. Soprattutto ecco, lì dove un grande come Massimo ti dice vieni che lavoriamo insieme su questa cosa, Emanuele prende la drammaturgia, ne plasmiamo un lavoro come ci piace e poi c'è da lavorare anche su tanti ragazzi giovani. Ecco, anche quello è stato è molto molto interessante. Sì, sì. Ecco, proprio a questo proposito ti chiedo come è stato considerato anche i riconoscimenti che ha avuto Massimo per la sua regia, com'è stato il rapporto sul palcoscenico e dietro le quinte con te e anche con questo numeroso cast giovane. Ma ripeto, Massimo è un collega che da attore molto stimolante, esigente, in qualche modo e forse già da sempre, un po' come quei calciatori che fanno gli allenatori in campo. Quindi in qualche modo la vis registica Massimo ce l'ha da sempre. Sì, sì, e, sì. Quindi lavorarci da regista in palcoscenico ti costringe a un corpo a corpo continuo, con lui che peraltro usa una strada da regista attore. Sì. Per far comprendere le cose, sì, cioè, sì. Sa parlare il linguaggio di chi sta in scena, sì, sì, quindi sì. È sempre molto chiaro quello che desidera venga fuori, solo spesso devi attraversare diverse fasi anche contraddittorie l'una dall'altra, perché è come se lui da attore le stesse scoprendo con te e questo mette chiaramente molto sotto stress chi lavora, perché costringe a una grande flessibilità e allo stesso tempo c'è sempre la richiesta di essere forti come qualità di presenza, anche perché un palcoscenico come quello dell'Argentina può mangiare chiunque. Quindi queste due cose accoppiate, la ricerca continua, però sempre con uno standard di energia altissimo da restituire, mette a grandissima prova chi si trova a lavorare. È innegabile che per i più giovani ci siano stati momenti di scoramento anche, sì. Perché riuscire a rispondere a queste sollecitazioni adeguatamente è difficile, è complesso, però devo dire che al termine già del ciclo di prove dell'anno scorso, poi con le repliche e ora con la ripresa ulteriore, quello che io ho notato la compagnia è stata una crescita enorme dal punto di vista attoriale. Veramente tutti gli attori sono messi in condizione di essere fortissimi in scena. Questo secondo me è il regalo da attore ad attore. Massimo porta meglio in dote da regista. Allora Lino, io ti ringrazio, è sempre un piacere, in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie. T'abbraccio, ciao. L'attore Lino Guanciale sullo spettacolo Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini a Roma, Teatro Argentina, dal 15 al 27 ottobre 2019. L'autore e regista Alessandro Fea sul suo spettacolo Beat, il mio urlo, omaggio alla Beat Generation, a Roma, Teatro San Genesio, dal 18 al 20 ottobre 2019. Alessandro, ben trovato. Grazie, ciao, ben trovato anche a te. Molto piacere. Presentaci questo lavoro. La Beat Generation, fine anni 40, primi anni 50, è una mia vecchia passione, insomma, come ben sai, essendo afficionato anche a Patti Smith, Luigi, a tutti coloro che hanno attinto, no? Come poi tanti, da quegli autori, da quei testi così, insomma, sconvolgenti per l'epoca, dopo tanti anni ho deciso di fare un mio omaggio personale, insomma, a quest'epoca, a questi autori, insomma, poi ne citiamo alcuni, ma insomma, penso che sappiano tutti di chi parliamo, dei vari Gisbert, Kerouac, Barros. Quindi sono nomi talmente importanti che saltarci un po', insomma, ci si inibisce un po' quasi, no? Confrontarsi con loro. La mia idea è nata un po' sempre in quest'ambito un po' teatrale musicale, in cui comunque non metto in scena, diciamo, solo recitato, ma testi musicati, parti, diciamo, che soprattutto mettono un po' a fuoco e partono da quel famoso processo che ci fu nel 1957 a Sterlinghetti, che era il loro autore, diciamo, l'autore di questi poeti, che fu processato perché gli voleva essere impedito di pubblicare quei testi. Quindi fu un processo, diciamo, abbastanza epocale, tra l'altro per un bellissimo film, non so se l'hai visto, Urlo, sì. Del 2010, molto bello, insomma, da quel processo parto un po' per descrivere quella che è stata poi la nascita soprattutto di questi poeti, cioè il perché questa generazione, diciamo, ha creato questo filone culturale di protesta, che poi è un filone comunque di spaccatura, no? Insomma, totale nella società di allora. Per una società, forse magari è importante ricordare sempre che dopo la guerra in America c'era una società profondamente culturalmente insomma chiusa, enormemente chiusa, che rifiutava tutto, cultura eccetera eccetera, e questi poveracci insomma venivano in questa, e vivevano in queste situazioni anche economicamente di basso livello, insomma, se uno va a vedere le loro storie, sono storie pazzesche, insomma, di ragazzi che a 10 anni stavano in galera, insomma, quindi storie fortissime, fortissime, veramente un paio non le conoscevo, tutto che so, quella di Gregory Corso per esempio, no? E lui dice che a 9 anni già stava nel riformatorio, capito? Quindi cioè, parliamo proprio di situazioni di degrado, underground, insomma, che hanno poi portato questi poeti che si sono incontrati con quegli anni a creare questo famoso appunto filone appunto di menti talmente eccesse che hanno creato quello che hanno creato, insomma. Quindi a me piace sempre andare, come sai, un po' all'origine delle cose, no? Sì. Anche perché è interessante anche un po' per il pubblico, perché magari appunto è una parte meno conosciuta, e poi le poesie, queste cose qua, insomma, hanno fatto lavori su lavori più di persone, insomma, quindi non è che non mi piace, diciamo, cioè, la mia idea non è quella di mettermi a recitare poesie o fare leggere poesie, se non un paio, insomma, che abbiamo musicato secondo il loro schema. La mia idea è proprio quella di andare all'origine di quello che erano e del perché sono diventati così, no? Cioè, del perché sono arrivati a dire quelle cose, perché è una spaccatura poi oggi, quindi insomma è una cosa importante. Per me è uno dei passaggi più forti che abbiamo secondo me nella nostra cultura, insomma, letteraria, lo definiscono così e io sono d'accordo con quello. Ecco, cosa apprezzi in particolare di questo fenomeno, di questo movimento? Ma guarda, lavorandoci sopra e leggendo tante cose in questo periodo, mi è tornato, due cose mi vengono sempre in mente. Una è la grossissima assimilazione, anche se la parola orrenda, alla musica, perché loro in quegli anni erano molto legati all'ambiente jazz di quel periodo, il bebop come si chiamava, quindi a vari Charlie Parker, Dizzy Gillespie, gente insomma stata utile del valore, e inevitabilmente questo incrocio tra l'altro la cultura nel periodo, come definiscono i testi, afroamericana, no? Diciamo questa grossa colonia che era musicale, e loro che erano artisti bianchi, no? Quindi in qualche modo la passione che per esempio Kerouac in particolare portava verso la musica è impressionante, cioè la loro capacità anche recitativa, un po' come ha ripreso poi Patti Smith alla fine, è molto musicale, estremamente musicale, no? Quindi in qualche modo è un connubio pazzesco, insomma, se tu vai a sentire delle cose di Kerouac fatte sul jazz o come di Barros, cioè, sono incredibili, sembra che sta suonando uno strumento oltre che ha recitato, no? Mm-hmm. Quindi è una cosa che mi ha sempre affascinato veramente. E la musica jazz di quel periodo, anche lei, è una musica di totale cultura, no? Ci ricordiamo insomma, anche che autori in quegli anni c'erano, insomma. E poi dall'altra parte la grossa capacità invece nella scrittura di essere duri e taglienti, in un modo che insomma appunto in quegli anni fu considerato sceno, inguardabile, improponibile, e comunque raccontavano uno spaccato di una società che quella è. C'è un testo, a un certo punto, un testo di, mi sembra di Barros, che lui dice da una parte ci vendevano un paese pieno di bellezza, no? Di boom economico della cosa, e dall'altra parte giravi l'angolo, un po' come disse l'origine, no? Come dico, giravi l'angolo e c'era il ragazzo che faceva l'eroina dietro un cassonetto, insomma, no? Quindi è proprio, sono stati i primi, secondo me, che hanno messo a nudo proprio quella che era questa contrapposizione poi sostanzialmente col capitalismo, perché là si torna, no? In qualche modo. Sì, sì. Loro furono chiamati, erano comunisti, ebrei, omosessuali, quindi proprio il peggio del peggio in quegli anni poteva essere, insomma, come rappresentanti di un fenomeno culturale. A me ha fatto effetto vedere anche proprio la, chiamiamola, violenza, tra virgolette, con cui furono messi, boicottati, proprio censurati, perché sai che alcuni di loro finirono a dire in manicomio, insomma, con l'elettro shock, insomma, quelle cose estremamente forti, se ci pensi, no? Che impianto hai creato per lo spettacolo? Guarda, molto cinematografico stavolta, quindi ci sarà un'alternanza tra richiami a questo processo, che in qualche modo crea un po' la cornice, degli spaccati in cui specialmente un attore mette in scena 4-5 di loro, autori proprio recitati, in cui fa vedere un po' questi spaccati di vita diversi o molto duri, tramezzato a due o tre poesie che leggiamo un po' nello stile che avevano loro, questo stile appunto un po' bebop, no? In qualche modo tagliato, spaccato, lavorato proprio sulla voce, visto poi a un, così a qualche richiamo anche un po' alla musica dell'epoca, insomma, quindi diciamo c'erano 4-5 canali così teatrali che vengono un po' seguiti e intervallati in maniera abbastanza veloce e sterrata soprattutto, quindi per loro è una cosa anche abbastanza impegnativa, insomma, il tipo di lavoro. Hai attinto a qualche lavoro in particolare della Beat? Guarda, ho cascato un po' di qua e di là, invece ho aspettato come arrivo, onestamente ho preso un po', non ho preso solo, diciamo, non, la cosa forse più conosciuta era quella bomba di Gregory Corso, la poesia, no? Quella contro la bomba atomica. Sì. Il resto no, ho pescato di qua e di là, sono andato a pescare un paio di queste, di tutto di vista o meno conosciute, insomma ho evitato di mettere proprio i classici in scena, ecco, questo non me la sento. Sono in contatto con alcune scuole perché mi interessava anche portarlo nelle scuole, questo è l'obiettivo che ho, molto, molto serio, perché ho intuito, ho mandato dei progetti a delle scuole e la cosa interessa molto, quindi già questo mi fa molto contento. Beat, il mio urlo, omaggio alla Beat Generation. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Alessandro Fea. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, sempre molto gentile. L'autore e regista Alessandro Fea sul suo spettacolo Beat, il mio urlo, omaggio alla Beat Generation. A Roma, Teatro San Genesio, dal 18 al 20 ottobre 2019. Autrice e attrice Clara Galante sul primo studio dello spettacolo Una vita o prove di liberazione. A Torino, Università Campus Luigi Einaudi, 19 ottobre 2019 e Liberazioni Festival, 20 ottobre 2019. Clara, ben trovata. Ciao Federico, ben trovato e ben trovati tutti. Ci racconti di questo nuovo progetto? Sì, volentieri, è una sfida, devo dire. Ho incontrato un piccolo grande libro un paio di anni fa ed è un libro appunto scritto da Pierre Clementi, che è questo attore, questa star degli anni 60-70 francese. Il titolo del libro originale è Quelques messages personnels e poi tradotto anche in italiano Lettere dal carcere. È un piccolo grande libro perché è una grande riflessione sulla libertà e mi ha affascinato moltissimo perché narra un po' la vicenda di Pierre, che nel 71 venne prigionato a Roma per detenzione, spaccio di droga e poi rilasciato dopo un anno e 8 mesi per mancanza di prove. Quindi lui si fece questo periodo di carcere che allora era senz'altro, immagino, più duro di quello di oggi, perché comunque, nonostante appunto sempre di carcere si parli, non c'era ancora stata le varie leggi che ci sono state poi dopo. E quindi descrive, parla, riflette alla libertà, alla giustizia e a quanto sia anche molto labile, molto sottile il limite, la soglia tra quelli che stanno dentro e quelli che stanno fuori. Dunque, tutto questo per me è stata una grande fascinazione. E allora, basandomi su articoli di giornali, studi che ho fatto, sono andata a Parigi, ho incontrato persone che l'avevano conosciuto, ho così approfondito, no, quello che lui aveva scritto, ho visto i suoi film, insomma ho fatto uno studio intorno a lui, anche un po' intorno a quegli anni, nel 71, quindi un post 68 e tutto quello che lui rappresentava, anche perché faceva un cinema comunque no rivoluzionario, ha lavorato con Pasolini, ha lavorato con Bertolucci, con Visconti, con la Cavani, con tanti personaggi di allora, anche Fellini gli offrì un ruolo nel Satiricon e tra l'altro Fellini testimoniò in sua difesa al processo che si tenne appunto a Roma e che poi ne decise la scarcerazione immediata per mancanza di prove. Insomma, una storia appassionante veramente, ha fatto anche Bel du Jour, insomma ha fatto tante cose, nonostante questo, e quindi forse anche per questo fu preso di mira. In quegli anni poi non fu certo la prima carcerazione, no, per droga, fecero tante cose, anche Luttazzi venne accusato, insomma erano degli anni di fuoco. Questo mio lavoro è un po' una lente di ingrandimento, non tanto sui fatti politici di allora, perché non è questo quello di cui voglio parlare, tanto invece l'interiorità di un artista, di una persona, perché no, anche fragile, lieve, bizzarra, con tante contraddizioni, eccetera, che si trova improvvisamente da un attimo all'altro dentro una situazione come quella del carcere, dove anche oggi, no, possiamo trovare tutto dentro. Infatti la metafora dell'arca di Noè, che lui cita nel suo libro, per me è stata fondamentale. Dentro troviamo l'assassino, l'innocente, troviamo anche quello normale, no? Che per chissà quale strana circostanza o destino si ritrova improvvisamente privato della propria libertà. In un momento come questo mi sembrava anche importante cominciare, visto che non è la prima volta per me, di scrivere, di interpretare qualcosa che abbia a che fare con i diritti umani, no? E allora questa volta, insomma, mi sono immersa nel mondo del carcere, ma veramente non solo del carcere, è una riflessione, perché comunque siamo tutti controllati, siamo tutti privati della nostra libertà per un modo o nell'altro, in un modo o nell'altro, e quindi insomma veramente mi interessava l'argomento, e anche l'argomento della colpa, perché no, di come affrontare anche, no, una ipotetica colpa, un senso di colpa, ecco, in cui noi tutti probabilmente siamo immersi, no? Del suo libro ti ha impressionato maggiormente la vicenda o la sua scrittura? Ah, guarda, la sua scrittura è bellissima, devo dirti. Io ho usato nel testo una scrittura in versi liberi, lui invece scrive normale, in prosa, normale, normalissimamente, ma con una vena poetica che mi ha veramente colpita. Mm-hmm. Scrive molto bene, è un libro scritto veramente bene, di una lucidità impressionante, nello stesso tempo anche con veramente guizzi poetici. Ma lui, sai, era un artista a tutto tondo comunque, suonava uno strumento, scriveva, interpretava, cantava, dipingeva, quindi senz'altro un animo un po' particolare, speciale, un artista, un artista vero. E tu che hai mai pensato la trasposizione? Ho pensato di dare voce, di evocare vari personaggi, diciamo, lui stesso e poi il direttore del carcere e poi una madre che, diciamo, potrebbe sicuramente essere la sua, ma anche una madre metafora, no, per tutti. Lui l'amava molto ed è presente nel libro questa figura materna che gli è stata molto vicino, di origini corse, probabilmente anche poi, tornando indietro, di origini italiane, perché se andiamo a vedere la storia, insomma, infatti lui era innamorato tra l'altro dell'Italia, parlava anche benino l'italiano, questa madre è una madre che l'ha nutrito, l'ha accudito, gli è stata vicino fino in fondo, lui era un orfano di padre, comunque la mamma se l'è cresciuto, e per questa figura materna lui ha nutre un sentimento particolare. Nel mio testo questa madre, l'unica persona a dare forza a lui, insomma, fino in fondo e fino alla fine, è proprio la presenza di questa madre a cui do canto, nel senso che la evoco cantando, come se attraverso il canto, così come lei dice, le donne che abitano il luogo da cui lei viene, suonano la voce dentro i tronchi e con la voce fanno risvegliare pure i morti. E quindi ho immaginato che ci fosse una partitura musicale cantata a cappella che evocasse proprio il discorso della madre, come dire, cioè colei la quale dà la speranza e dice: vedrai che potrai farcela. Questa è una presenza molto importante. La sfida mia è quella di, appunto, di dare io stessa voce a tutti questi fantasmi, perché è come se fosse un lungo ricordare, un evocare un'esperienza attraverso la voce di tutti quelli che lui ha incontrato attraverso questa esperienza. Concluso il cuore del carcere. Una vita, perché il testo riguarda tutti noi, non solo chi ha avuto la sventura di entrare in carcere, perché veramente, ripeto, in ognuno di noi c'è, come posso dire, un carcere interiore, diciamo, no? Ci può essere la privazione di una libertà, no? Perché appunto siamo tutti controllati. Dunque, questo riguarda tutti. E poi Prove di liberazione, perché è un po' un inno alla vita, alla speranza, non è affatto un testo che si adagia sulla tristezza oppure sul vittimismo, oppure, ripeto, è l'esaltazione proprio, è una grande riflessione alla libertà e anche un incitamento proprio per andare avanti e conquistarla, perché fermarsi, e cito una sua frase a questo punto, fermarsi significa morire, quindi abbiamo il compito di andare avanti. E allora ricordiamo questo primo studio, Una vita o prove di liberazione, un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Clara Galante. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Clara. Viva il lupo, grazie, grazie, a presto. L'autrice e attrice Clara Galante sul primo studio dello spettacolo Una vita o prove di liberazione. A Torino, Università Campus Luigi Einaudi, 19 ottobre 2019 e Liberazioni Festival, 20 ottobre 2019. Con Emma Campilli e Donatella Furino, autrici e registe della prima social serie Amleto, la serie, alla seconda stagione online dal 10 ottobre 2019. Ben trovate. Ciao, ciao. Ce la presentate? Partiamo un attimo da una cosa breve. Social serie, che vuol dire social serie? Che cos'è una social serie? Sia io che Donatella è da un po' di tempo che riflettiamo sul fatto che i social network portano con sé una struttura narrativa vera e propria che sembra dettare nuove regole spazio-temporali per tutto ciò che fino ad oggi abbiamo definito racconto. E ci è sembrato quindi più che opportuno, doveroso possiamo dire, provare ad applicare questa intuizione che abbiamo avuto quindi circa quello che sta succedendo con il racconto sui social all'audiovisivo, in particolare in questo caso all'Amleto. Quindi poi questo è un lavoro ancora successivo, perché abbiamo preso un testo teatrale che è quello dell'Amleto e l'abbiamo portato non solo su Facebook, ma abbiamo messo il teatro a servizio del cinema e viceversa, no? Ed è stata una grande scommessa, perché un testo altissimo, di qualità altissima, credo forse il testo, uno dei testi più grandi che ci siano nel teatro, ed è quindi una grande scommessa, perché sui social non è facile fare un'operazione tra virgolette culturale così alta, con un linguaggio anche così alto, perché è in endecasillabo. Ecco, proprio in questo senso, che lavoro avete fatto sul testo rispetto al linguaggio, rispetto poi alla suddivisione in puntate? Il linguaggio è proprio quello del testo, non abbiamo toccato una parola, cioè entrambe siamo contro quella che è la riscrittura proprio in termine tecnico dei classici, soprattutto dell'Amleto, dove come diciamo sempre la grandezza di Shakespeare e soprattutto di Shakespeare nell'Amleto è il modo in cui usa la parola e il pensiero più che il plot della storia, quindi il lavoro di riscrittura lo abbiamo fatto nella forma su due livelli, quindi da una parte lo abbiamo ambientato a Roma, quindi tra virgolette il contemporaneo interviene proprio nella formalità, cioè nel luogo dove si svolge la storia, ma il linguaggio è immutato. Quindi è integrale? Integrale, sì. Okay. Come dice il nostro attore, abbiamo fatto Ben-Hur. Quante puntate saranno e di che durata? Le puntate sono 15, di 15 minuti ciascuna, questo per quanto concerne però la versione tra virgolette web serie, quindi un montaggio più classico, mentre la versione social serie è a post, diciamo, sono dei piccoli post di 3 minuti, 5 minuti, dove vanno delle piccole scene durante tutto il mese e alla fine del mese va la puntata. Diciamo che in assoluto la social serie dura più di un anno, perché siamo partiti a febbraio, abbiamo chiuso la prima stagione a giugno, fine giugno, ora ripartiamo giovedì e concluderemo la seconda stagione a gennaio e poi ci sarà una terza stagione. E la parte postata è sia video che scritta, quindi vanno insieme sia la parte scritta che la parte video. Che bilancio della prima serie? I post su Facebook fanno tra le 17.000 e le 24-23.000 visualizzazioni, le risposte sono corpose, cioè il pubblico parla, vuole sapere, vuole conoscere, litiga anche con noi. Noi alcune volte siamo anche, diciamo, per la filosofia eliminare i commenti in molti casi, perché questo è un altro discorso, è un'altra parentesi, se vuoi ci fai la domanda te lo diciamo. Comunque buono, devo dire buono, siamo state contente, diciamo. Cosa avrà di diverso la seconda stagione o lo riproporrete nello stesso modo? La seconda stagione non cambia, cioè tu calcola l'Amleto nella versione teatrale è diviso in 5 atti, quindi non è che poi il secondo atto è diverso dal primo quando vai al teatro, quindi nella stessa maniera anche in questo caso non muta. Sicuramente ci saranno molti più monologhi, quindi molte più scene dove gli attori, Amleto soprattutto, ma anche gli altri attori parleranno direttamente al pubblico. Questa cosa succedeva nella prima stagione, ma avverrà in maniera molto più massiccia nella seconda. Poi pensiamo, stiamo riflettendo di iniziare a far sì che le persone che vogliono commentare, criticare, parlare, chiacchierare, lo possano fare solo mandandoci dei video, quindi non nella forma del commento scritto. Quindi in una sorta di metteteci la faccia, diciamo, oppure la voce. Per le riprese l'impostazione è stata cinematografica o teatrale? Cinematografica, però la recitazione, cioè le prove sono state delle prove teatrali, gli attori hanno provato proprio come si prova a teatro, però hanno provato nei luoghi, quindi praticamente in mezzo alla gente, un po' tipo living theater, però le riprese sono state cinematografiche ma con moltissime lunghe sequenze, proprio perché le prove teatrali ci hanno consentito di fare questo. Le puntate con che cadenza verranno pubblicate? Diciamo che noi di solito postiamo 3 post a settimana, di cui uno è per foto, quindi per immagine. Ovviamente la storia continua, cioè che sia GIF, che sia meme, che sia loop video, eccetera, siamo sempre nella tragedia. Sono 3 post, di cui sicuramente un video, quindi una parte poi di quella che sarà la puntata integrale, più immagine e foto, quindi possiamo dire 3 post circa a settimana, più la puntata finale a fine mese. Ogni fine mese c'è la puntata integrale. Quindi in quanti mesi sarà? Dunque, noi contiamo di fare la seconda stagione adesso a ottobre e terminarla intorno a gennaio, poi ci sarà uno stop e ci sarà la terza stagione che durerà fino a giugno. 3 mesi, diciamo, più o meno. In chiusura ci lasciate tutti i riferimenti internet per saperne di più? Su Amleto la serie, su Facebook c'è la pagina di Amleto, si trova anche su Instagram e anche su YouTube. E poi c'è la nostra pagina, che possiamo definire il nostro canale vero e proprio, che è Stasera c'è spettacolo, dove partiremo anche con una vera e propria, più che rubrica, diciamo, dove proprio poniamo la domanda al pubblico, cioè Stasera c'è spettacolo col punto interrogativo, quindi cerchiamo di capire se oggi si può parlare di spettacolo, si può parlare di arte, come farla, perché farla. E lì ci sono tutte le informazioni sul nostro lavoro, su Amleto e sugli altri che verranno. Amleto la serie, la prima social serie, seconda stagione online dal 10 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento alle autrici e registe Emma Campili e Donatella Furino. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Presti, ciao Federico. Ed eccoci alla settimana teatrale romana con Simone Nebbia di Teatro e Critica, a cui cedo volentieri la parola. Ciao Simone. Mi cede la parola, Federico, anche se non era in vendita, me la cede perché è generoso e io me la prendo molto volentieri per parlarvi del teatro di questa settimana che entra un po' nel vivo delle stagioni, non tutte iniziate, ma insomma si comincia pian piano a fare sul serio, pur rimanendo con il programma di Romo Festival ancora attivo e ancora per un bel po', quindi un periodo particolarmente fertile a Roma. Allora, dunque, direi che possiamo anche tranquillamente cominciare con andando tranquilli, e direi appunto che possiamo andare prima di tutto a un teatro che riapre, ha già riaperto la scorsa settimana, però insomma si sta riaffermando, rimettendo in pista, ed è il Teatro Brancaccino, perché dal 17 ottobre fino al 20, per il weekend, insomma, presenta una regia di Michele De Vita Conti con Maria Alberta Ravello e una Lady Macbeth, scene da un matrimonio, quindi un matrimonio piuttosto funzionante. Shakespeare, quello tra Lady Macbeth e suo marito, insomma, funzionante a loro modo, un'unione di amore, certo, ma di anche ambizione, attrazione, molta, molta complicità. Quindi questo è quello che succede in Lady Macbeth fino al punto in cui lei non si sa bene per quale motivo si suicida. Ecco, andiamo a scoprire questa sorta di autopsia di un matrimonio, come ci segnala lo stesso Michele De Vita Conti, dal 17 ottobre al 20 al Teatro Brancaccino. Poi ce ne andiamo anche al Teatro Tor Bella Monaca, perché da giovedì a sabato, 17, 18 e 19, andremo a vedere il quartet di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini. È un classico, classico da sempre comunque di coppia, in qualche modo. Due amanti perduti e annoiati, le loro perverse fantasie, tratto dalle relazioni pericolose di Laclos, immaginato come una sorta di ring in cui i due personaggi si toccano in un statico gioco di relazione. Quindi con appunto Cristina Golotta, Roberto Negri, due attori, e c'è Alessandro Marconi, 17-19 di ottobre al Teatro Tor Bella Monaca. Andiamo anche al Teatro Palladium, perché questa settimana, dopo appunto lo spettacolo di Roberto Latini in Exitu, c'è ancora qualcosa e qualcosa che va, ecco, se Pasolini, attenzione, se Latini si era occupato di Testori, l'altro grande polemista di quel periodo novecentesco è stato sicuramente Pierpaolo Pasolini sulle colonne del Corriere della Sera, l'uno Testori succedendo all'altro Pasolini. E La scomparsa delle lucciole, il terzo episodio della trilogia dopo Salò, con la regia di Gianfranco Pedullà, che appunto ci porta all'interno dell'immaginario pasoliniano, una sorta di geografia poetica dell'Italia dalla caduta del fascismo alla fine della Prima Repubblica, dedicata appunto a Pierpaolo Pasolini. Questo episodio, il terzo, è dedicato agli anni 70, il primo e poi il secondo negli anni 80 fino ai 90, cioè quindi appunto alla fine della Prima Repubblica. Questo è Teatro Palladium, per Gianfranco Pedullà, 17 e 18 di ottobre. Andiamo poi al Teatro Biblioteca Quarticciolo, dove 19 e 20 ottobre viene lui premiato attore, regista Mario Ferrotta con Il nome del padre, lavoro dedicato proprio al rapporto tra padre e figlio, più che altro alla figura del padre in crisi di fronte al mestiere più difficile del mondo, perché il figlio adolescente è un interlocutore ormai disconnesso con un orizzonte molto diverso da quello dei padri, e quindi insomma, ecco, nel dialogo difficile tra le due generazioni Mario Ferretta muove Il nome del padre, 19-20 ottobre, Teatro Quarticciolo. Ti porto anche al Teatro Eliseo per una cosa, diciamo, un po' limitrofa, però mi fa piacere molto segnalarla, perché nell'anteprima di stagione all'Eliseo, il 19 ottobre, al Piccolo Eliseo, è in scena per una sera soltanto lo spettacolo musicale, il concerto, spettacolo, l'orsonnamurato di Sollo e Newt, cantautore napoletano Newt, insomma, insieme al musicista Alessio Sollo, che portano questo lavoro, appunto, che tiene insieme la musica napoletana, il blues, il folk inglese e alle melodie africane. Quindi guardate, è molto interessante, l'altro me l'ho ascoltato e davvero merita una discreta attenzione. Poi andiamo anche al teatro Keiros per questo fine settimana a vederci un lavoro dedicato alla poesia, e cioè alla poesia di Dino Campana. Venerdì 18 la performance e installazione dedicata a Dino Campana in più lungo giorno è quella di Monica Giovinazzi, appunto, teatro Keiros. Poi sicuramente è l'occasione questa settimana per andare al Teatro Torlonia dal 17 fino al 30 ottobre, produzione del Teatro di Roma per la regia di Massimo Di Michele, uno sguardo su Achille Campanile. Felicità, è il lavoro, questo è il titolo, scene travestì, balletti retro, fraintendimenti, fiumi, pagliette, tre attori che vanno a cercare la vena artistica straordinaria in molte forme del repertorio di Achille Campanile, una eccentricità originale e molto ironica. Quindi andremo al Teatro Torlonia 17-30 ottobre, ma non è la sola cosa che andremo a fare al Teatro di Roma, perché avremo sicuramente da vedere un lavoro storico importante, che è quello della Gaia Scienza, che in collaborazione con Roma Europa Festival, appunto, e con la collaborazione interna in realtà del direttore del Teatro di Roma, Giorgio Barberio Conzetti, attivo con la Gaia Scienza negli anni dell'avanguardia, presenta La rivolta degli oggetti di Vladimir Majakovskij con Marco Solari e Alessandra Avanzi, i suoi storici compagni, appunto, nella grande avventura della Gaia Scienza. Quindi un appuntamento con la storia, perché alla fine degli anni 70, nel 1972, questa rivolta degli oggetti divenne un punto di riferimento estetico e concettuale sia per la formazione del gruppo, ma in realtà proprio per la cultura e per la controcultura romana e poi italiana di quegli anni. Insomma, quindi 43 anni dopo torneremo a vedere questo lavoro, che io ovviamente non ho visto dal vivo per tanti motivi, ma è più semplice che in realtà non ero nato. Quindi è un'occasione decisamente gustosa per andare a contatto con la storia del teatro. 17 ottobre, 3 novembre al Teatro India. Ma attenzione, perché il Teatro di Roma questa settimana presenta anche un ritorno sulla scena molto molto importante, perché credo per la terza stagione consecutiva, ancora Pierpaolo Pasolini, ancora Ragazzi di Vita, 15-27 ottobre, regia di Massimo Popolizio, la drammaturgia e l'adattamento da Pasolini di Emanuele Trevi, quindi una firma importante, e in scena un attore che ormai è diventato un grande punto di riferimento, ovvero sia Lino Guanciale, che spazia dal teatro alla TV con successi plurimi. Quindi insomma, complimenti a Lino Guanciale, che però torna sempre in teatro, non se ne va mai da teatro fortunatamente, e dopo tutti i giorni di tutte le stagioni precedenti torna appunto a parlare di Ragazzi di Borgata, ma sorriso di romanzo Ragazzi di Vita del 1955, e che insieme, diciamo, all'altro grande romanzo Una vita violenta, un po' affresca la vita del sottoproletariato romano nel periodo della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Quindi 15-27 ottobre per Teatro Argentina, Ragazzi di Vita. E infine direi che l'occasione intanto è di ricordare una cosa importante, che altrimenti mi sfugge, ma lunedì prossimo noi saremo già andati, non saremo ancora in onda, perché siamo in onda martedì, il 21 ottobre alle 18 nel foyer del Teatro Valle ci sarà una serata dedicata ad Anna Marchesini. Quindi chiunque abbia amato un po' l'attrice e autrice scomparsa qualche anno fa, che ricordiamo tutti appunto per la sua ironia, per la sua grande qualità interpretativa e per il suo linguaggio molto, molto particolare, indimenticabile, e lunedì 21 ottobre ore 18 nel foyer del Teatro Valle per la serata Anna Marchesini. E ora andrei ai due appuntamenti fondamentali della settimana. Il primo riguarda proprio il nostro autore della settimana, ovvero sia Roberto Latini, che dopo aver cercato il palco del Teatro Pallachi, ma si arriva al Teatro Bascello per un trittico, purtroppo, ahimè, ieri sera abbiamo già visto La delicatezza del poco del niente, con la lettura dedicata a Mariangela Gualtieri, delle poesie della poesia di Mariangela Gualtieri, ma sicuramente non andremo, non saremo conosciuta per due veri e propri capolavori. Io ho visto entrambi e sono ben felice che possa passare per Roma due spettacoli notevoli. Il Cantico dei Cantici, che sarà in scena domani, dopodomani, mercoledì e giovedì 16 e 17, ed è un adattamento dal poema antico contenuto nella Bibbia, ma con una versione moderna, ovviamente un artista sperimentale come Roberto Latini, un testo poetico pervaso di dolcezza e di grande immaginazione, un'opera tra le più misteriose che ci siano state tramandate. 16 e 17 ottobre a Teatro Vascello, dove da venerdì a domenica invece, 18, 19 e 20, verrà presentato il lavoro che Roberto Latini dedica a Luigi Pirandello, dai sei personaggi in cerca d'autore, sei e dunque perché si fa meraviglia di noi, con in scena Piazza Sempre di Tanno, ovvero un attore straordinario. Al terzo appuntamento Roberto Latini con Pirandello, ricordo qualche anno fa con Il fiore in bocca, con in scena Sandro Lombardi, poi il monologo dei Giganti della Montagna e ora questo sei personaggi con in scena soltanto per Giuseppe Di Tanno, quindi Roberto Latini lascia la scena al giovane interprete e particolarmente bravo. Vado davvero senza freno a dirlo perché è davvero un notevole attore. Ovviamente con lui al fianco di Roberto Latini la musica e il suono del grande Gianluca Nisiti, compositore premio UBU per le musiche di alcuni spettacoli di Forte Braccio Teatro, appunto. E ultimissimo appuntamento assolutamente da non perdere è la settimana di Roma Europa Festival, perché da questa sera fino a domenica è questa la settimana di anni luce, ovvero sia i fari accesi da parte del palco romano internazionale per eccellenza Roma Europa Festival su ciò che c'è appunto nel territorio del teatro più giovane, anche se poi questa, insomma, è una definizione un po' stretta per alcuni. Si parte con Liv Ferracchiati, che presenta Commedia con schianto, struttura di un fallimento tragico, in scena 15 e 16 ottobre al Mattatoio. Liv Ferracchiati, che nasce a Todi nel 1985, che sovrappone in questo testo la finzione e la realtà. Si accorge però che rivela troppo di sé, interrompe la scrittura, l'autore, per scivolare in una crisi che combatte mangiando pere. Quindi una sorta di non senso quello di Liv Ferracchiati, che va a indagare i processi della scrittura e una satira poi sull'attuale sistema teatrale, insomma, per guardare da lì un po' l'emblema di una generazione senza padri che costruisce il futuro in un vuoto di senso. Questo per quanto riguarda Commedia con schianto di Liv Ferracchiati, ma contemporaneamente sempre questa sera c'è il debutto di Libia Back Home, la ballata di Ilenna, 15 e 16 ottobre, sempre anche loro che presentano questo lavoro dedicato alla Libia. Miriam Selima Fieno, l'attrice della compagnia, attrice storica della compagnia, che ricostruisce le tracce della sua origine libiche. E durante le ricerche attraverso i social network e in vari modi entra a contatto con un cugino libico e altri personaggi che saranno all'interno del racconto, che va, insomma, a mettere a fuoco il conflitto politico internazionale che è in atto nel paese, e da una vicenda personale dunque risale fino a una memoria collettiva, dall'autobiografia fino alla biografia del mondo, quella della ballata di Elena, che presenterà questo lavoro appunto al Mattatoio 15 e 16 di ottobre, oggi e domani. Ma assolutamente andiamo anche a vedere gli altri due lavori che saranno presentati questa settimana per anni luce. Intanto sicuramente, eccola qua, ce la facciamo. Allora, Industria Indipendente, che va sempre al Mattatoio con la prima assoluta di Lallaby, tragedia aerobica, dal 18 al 20 ottobre, gli Stati Uniti d'Europa, 2059, la catastrofe è stata evitata, il mondo sembra ora un luogo giusto. Questo è il panorama in cui si muove l'ALB, i giovani di quella generazione, della nostra generazione, da vecchi si godono una vecchiaia nei tanti centri LALB diffusi nel continente, quindi una sorta di proiezione verso il futuro, quella di LALB, e andremo a vedere che tipo di presente sarà quello del 2059 negli Stati Uniti d'Europa secondo Industria Indipendente. E l'ultimo lavoro che andiamo a segnalare è l'atto di adorazione di Dante Antonelli, 18-20 ottobre, ancora al mattatoio, quattro ventenni si incontrano in un parco per sentirsi liberi dai vincoli familiari e sociali. Il parco diventa, nell'azione della foresta selvaggia, in primitiva deve affrontare i traumi e legarsi agli altri in un patto d'amore e fratellanza. Ispirato alle opere dello scrittore Yuki Mishima, tra parole, corpi, musica e danza, Antonelli va a guardare anche lui la gioventù contemporanea per cercare di indagare il presente e il futuro di questa generazione. Con quattro attori, Claudio Arena, Giovanni Onorato, Arianna Pozzoli, Pietro Turano, va a chiudere questo panorama romano di questa settimana, davvero ricca, assolutamente da non perdere, quindi dobbiamo incontrarci necessariamente a teatro. A martedì prossimo, Simone. Ciao a tutti. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.